Ciao Giulia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buon inizio di settimana. Allora Giulia, oggi da dove iniziamo la nostra tua lettura dei giornali internazionali? Sì, se vuoi, visto che avete parlato di Francia, ti cito il titolo di Le Figaro, che mi sembra interessante. Dice come il teletravai, quindi il telelavoro, non sia mai naturalmente che i francesi lo chiamino smart working, si è imposto sulle nostre vite. Secondo me il dato interessante che emerge è che a questo punto il 75% delle persone, è un sondaggio, quindi prendiamolo per quello che è, delle persone che hanno iniziato a fare il telelavoro e prima non lo facevano, a questo punto vorrebbero quasi quasi mantenere questa condizione. Quindi sicuramente si porrà un problema di, appunto, di riorganizzazione del lavoro. Interessante anche il titolo di Liberation, che invece ha una copertina divisa in due. Una persona che cammina su una linea bianca che divide queste due zone dice ritorno alla anormalità, perché in effetti, insomma, non è certo, l'abbiamo detto tante volte, no? Come ci spiegava anche il collega da Parigi, è un processo lento e una normalità, vedrà, insomma, non tanto che normale accade. Effettivamente. Esatto. Tanto. E invece mi è sembrato tornato a una, anzi quasi più deciso del solito, ieri Boris Johnson ha parlato alla Nazione sulla BBC, poco più di un quarto d'ora, molto efficace, molto pettinato, non lo dico per dire, nel senso che secondo me è uno di quei segnali del corpo che hanno una loro valenza, cioè era molto deciso, voleva essere preso molto sul serio, dopodiché purtroppo è, ma questo non credo sia un suo problema, è che proprio anche lui naviga un po' a vista, quindi i giornali, insomma, a seconda che siano già che fossero già critici con questo governo prima, scelgono i loro titoli. Quindi il Daily Telegraph titola La lunga strada verso la libertà. Però, se vuoi, sentiamo un piccolo brano di questo Boris Johnson. Mi è sembrato anche completamente tornato in forza. Cioè, ecco, insomma, è l'equivalente, Giulia, per intendersi, un po' di quella conferenza stampa, di quell'intervento che ha fatto Conte. Per annunciare la fase 2, diciamo, siamo un po' nello stesso, il paragone potrebbe essere quello, no? C'è tanta attesa per sapere cosa succederà. Esatto, e poi è come se Boris Johnson, e in generale nel Regno Unito, ma anche altri paesi, la fase del confinamento, del lockdown, è la fase zero, diciamo. Poi lui ha parlato di un step one, si torna a lavorare chi non può appunto lavorare da casa, lo step two, riaprono le scuole primarie, probabilmente il 1° giugno, e lo step three, che riapriranno anche i cinema e i ristoranti. Ma se vuoi sentiamo. Questa voce particolarmente tonica di Boris Johnson. We must stay alert. We must continue to control the virus and save lives. And yet we must also recognize that this campaign against the virus has come at colossal cost to our way of life. We can see it all around us in the shuttered shops and abandoned businesses and darkened pubs and restaurants. Abbastanza comprensibile, però aiutaci. Sì. Dice appunto da stay home, che erano queste due parole, cioè restate a casa, si passa a stay alert, cioè uscite però con la massima attenzione, perché dice nessuno di noi può ignorare il fatto che questa lotta contro il virus ci è costata enormemente in termini di perdita del nostro modo di vivere. E poi fa queste, insomma, queste belle immagini, tipo li vediamo tutti, no? Questi darkened pubs, questi pub che non hanno più luce, i negozi sono chiusi, insomma, da questo dobbiamo uscire. Naturalmente ringrazia tutti, come hanno fatto tanti altri capi di Stato e di Governo, ringrazia tutti i britannici per la loro collaborazione fin qui, ringrazia tutti quei lavoratori essenziali. Tra l'altro ho trovato molto interessante la scelta francese, ecco, di questi, cioè di mandare a scuola prima di tutto i bambini di quelle persone che devono uscire per lavorare. Ecco, di questi dettagli purtroppo Boris Johnson non ne ha dati, tanto che il Guardian titola l'alleggerimento del lockdown lascia la Gran Bretagna confusa e divisa. Questo per dire che, insomma, mancano anche lì quelli, possiamo chiamarli protocolli, possiamo chiamarli linee guida. È stato un appunto da stay alert, da stay home, stay alert, control the virus, save lives, però insomma è molto generico come indicazione. Noto però che anche in Gran Bretagna c'è una data per il ritorno a scuola, il 1° giugno, e insomma a questo punto è quasi solo l'Italia che non ha una data, ma neanche un piano. Ma a parte questo, per quanto riguarda invece, Giulia, la Spagna, ci sono le solite tensioni con gli enti locali, che è un tema classico spagnolo, insomma le regioni che chiedono anche qui di ripartire, un po' come in Italia lo fanno il Veneto, il Friuli, eccetera. Sì, in Spagna in particolare è Madrid, che naturalmente anche per questioni di turismo, perché si avvicina la stagione turistica, ammettiamo pure che quest'anno in Spagna, come in Italia, come in tantissimi altri paesi, ci sarà soprattutto turismo domestico, ma tant'è, insomma bisogna riavviare appunto la macchina. Quindi in particolare Madrid, Valencia, a sua volta località, città molto turistica, e tutta l'Andalusia chiedono appunto di rivedere queste linee guida che, come abbiamo visto, Sanchez vorrebbe generali per tutta la Spagna. Vedremo un po' come andrà avanti. El Mundo, che come sappiamo è un quotidiano molto critico con questo governo Sanchez, ha una lunga intervista al ministro della giustizia che dice, perché le critiche sono state anche sulla gestione e la minaccia di fare causa agli enti locali o allo stesso governo centrale per la gestione della fase di emergenza, e il ministro assicura dateci giusto il tempo di uscire veramente dall'emergenza, anche perché ovviamente molti tribunali anche sono chiusi o lavorano a scarto ridottissimo, e guarderemo con attenzione a tutte quelle che possono essere stati degli errori evitabili e troveremo le responsabilità. Insomma, almeno c'è questa ammissione così di effettivamente di possibili più che malversazioni, proprio mancanza delle competenze giuste nel momento giusto e quindi conseguenze gravi. Abbiamo un poco meno di un minuto, ci sono ancora delle notizie, ma soprattutto vorrei che mi parlassi della prima pagina, della copertina del Time, se ti va. Sì, è una copertina molto bella, molto grafica, rossa e nera, e ci sono i confronti tra il 1933, che negli Stati Uniti è stato l'anno della Grande Depressione, perché dopo il crollo dei mercati del 1929, un po' come è successo qui, no? 2008, stavamo uscendo da quella crisi finanziaria, ora del 1933 si era tutto riversato sull'economia reale, il tasso di disoccupazione era al 25,4, ora siamo nel 2020, il tasso di disoccupazione è al 20%, ma ieri il segretario Mnuchin ha detto potrebbe anche salire, e quindi il grande, questi due paragoni e quello che il Time chiama The Great Reckoning, cioè il momento della verità. Lo stiamo dicendo, credo io, ce lo stiamo augurando tutti, che sia un momento in cui si ripensano anche un po' le basi di come siamo arrivati, di come erano le nostre società e le nostre economie prima di questa pandemia. Poi io lo trovo un po' wishful thinking, cioè speriamo. Sì, che accada, vedremo che cosa saremo in grado realmente di rielaborare. Giulia, ci risentiamo domani, grazie a te. È tutto per la puntata di oggi. Carmelo Loricella in regia, Danilo Litrani in assistenza, Alessandro Schirano in redazione, da Alessio Maurizio. Ciao, buona giornata.